Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, gatti Eccoci neri qua. All'ascolto, scappate perché oggi è il vostro giorno sfortunato. Se incontrate qualche umano, datemela a gambe. Fuori cornetti. Esatto, sì. Cornetti, corna, quadrifogli, il sale dietro le spalle, ma quello in realtà è un rito che si deve svolgere solamente se ti cade il sale in tavola, non c'entra niente questo col venerdì 17. Lo chiederemo, chiediamolo ai nostri amici. Il rito scaramantico del venerdì 17, qual è? Peraltro non solo oggi, ma anche il mese prossimo sarà venerdì 17 marzo. Esatto. Ma io sono nata di venerdì 17, quindi porta buono, noi non ci crediamo a tutto ciò. Detto questo, però, voi qual è il vostro... Non ci credo, ma tant'è. Però se stamattina vi siete alzati con questo pensiero, con un pezzettino di preoccupazione addosso e non vedete l'ora che arrivi mezzanotte, che sia sabato 18, diteci chiamateci un po' che cosa farete. Esatto. E noi vi diciamo intanto che borse come vanno? Le borse vanno male oggi. Vedi? Però venerdì 17. Ho bisogno della sigla. E vabbè, ma d'altronde corri, ad un certo punto devi anche fermarti. In realtà poi questa corsa, lo abbiamo raccontato anche ieri nella prima parte di Cuore Denari, riguarda in questo periodo prevalentemente Wall Street, che anche ieri sera, dopo i record di tutti i giorni, ha chiuso con gli indici sulla parità. Quindi in gergo si dice ha consolidato i rialzi recenti. Vuole stare lì il mercato americano, appunto sui record che sono stati anche consentiti un po' da tutte le promesse elettorali di Donald Trump. E adesso vedremo se, visto che è presidente, le manterrà queste promesse di stimoli fiscali, investimenti in infrastrutture, tutto ciò che consente all'economia americana di crescere e di generare nuova occupazione e anche utili aziendali per le società quotate. L'Europa oggi male, Parigi perde lo 0,8%, Francoforte lo 0,4%, Londra lo 0,28% e Milano meno 0,85%. I migliori titoli, Mediaset più 2,23%, pare che riesca a concludere la cessione di Premium a Sky. Le trattative si sono rifatte intense e il titolo infatti oggi ne beneficia in borsa. Poi Moncler, abbiamo i piumini in rialzo dell'1,19%, va bene nel settore assicurativo la Galassia Unipol, entrambi i titoli sono in rialzo di un punto e dello 0,4%, STM più 0,30. Chi è che invece porta in giù Piazza Affari? Di nuovo i titoli, i soliti, Nicoletta, i bancari. Eccoli lì. Popolare dell'Emilia Romagna. Ormai l'ho imparato anch'io. Esatto, Popolare dell'Emilia Romagna meno 2,71. Oggi male anche il comparto petrolifero con Saipem che perde più di 2 punti. Il Banco BPM meno 1,97%, meno 1,8% per UbiBanca. Prese di profitto su Fiat Chrysler meno 1,86%. Ferrari, il cavallino rampante, meno 1,85%. Leonardo, Finmeccanica meno 1,76%. Poi abbiamo un calo di 1,5 punti per Mediobanca, Telecom, Exor. Oltre un punto di calo per Unicredit, Snam ed Enel. Questa è la fotografia di oggi. Stamattina anche Tokyo ha chiuso con un ribasso di 0,5 punto percentuale. Primo approfondimento della nostra puntata di oggi. Allora, ieri è stata una giornata molto intensa a Roma perché Nicoletta finalmente ha avuto il via libera il decreto salva risparmio, quello dove sono contenute le norme per le banche in difficoltà che hanno bisogno di intervento dello Stato. Quindi è stata introdotta questa possibilità di fare le cosiddette ricapitalizzazioni precauzionali, provvedimento che adesso riguarda Monte dei Paschi e potrebbe essere un intervento necessario anche per la Popolare di Vicenza e Veneto Banca. E questo è un capitolo. Tra le novità del provvedimento di ieri, delle quali in realtà noi abbiamo già parlato in puntate precedenti, c'è la possibilità per gli obbligazionisti delle banche risolte Etruria, Ferrara, Chieti, Marche di fare richiesta di indennizzo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino alla fine di maggio. La possibilità si era chiusa il 3 gennaio, adesso i termini si sono riaperti fino a fine maggio. Noi ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa con l'avvocato Letizia Vescovini, che ci ha raccontato tutti i nuovi criteri di accesso. E magari rimettiamo sul nostro profilo, appunto, della nostra puntata, la puntata con l'avvocato Vescovini. È stato varato anche questo è un tema che a noi piace e ci siamo molto affezionate, il provvedimento che prevede il pacchetto di misure per promuovere l'educazione finanziaria in Italia. Finalmente Dai, ce l'abbiamo. Questo è una battaglia di Cuore Denari. Parte così finalmente la strategia nazionale di educazione finanziaria e presto si procederà alla costituzione di questo comitato nazionale incaricato di portare avanti questa strategia. Peraltro nella legge, questo è un tema importante sul quale torneremo presto, viene data grande attenzione anche alla parte del risparmio a fini previdenziali per consentire ai cittadini di acquisire tutte le conoscenze necessarie per programmare i propri piani pensionistici, un tema delicatissimo. Ma oltre a tutto questo, a Roma ieri è successo dell'altro, oltre alla grande bagarre dei tassisti. Mamma mia. Esatto, non li evochiamo perché sennò stamattina ci prendiamo qualche insulto pure noi. No, comunque la città era in tilt. Esatto, pare che Milano, io ieri non me ne sono accorta perché non ho avuto bisogno di prendere taxi. Anche Milano ieri sia stata molto nervosa e forse a Milano si potrebbe proseguire anche oggi, però non me ne sono accorta, vediamo insomma. Proviamo a prendere un taxi, esatto. Oltre a tutto quello che abbiamo raccontato fino ad ora, ieri a Roma è successo anche dell'altro. Vale a dire, le associazioni dei consumatori hanno incontrato le Poste Italiane per fissare i criteri di rimborso per quei risparmiatori che hanno investito in fondi immobiliari collocati negli anni passati presso gli sportelli delle Poste. In particolare, come ricorderete, perché anche qui abbiamo fatto già diverse puntate sull'argomento, uno di questi fondi, IRS, Invest Real Security, è giunto a scadenza a fine dicembre e quando i sottoscrittori se ne sono accorti hanno dovuto constatare che il capitale che veniva teoricamente restituito per questo prodotto a scadenza era ben distante rispetto al capitale inizialmente investito. E quindi da lì è naturalmente partita tutta la grande polemica che ha investito i giornali, ha investito le Poste, che a questo punto hanno dovuto decidere appunto in qualche maniera di procedere a questa azione di tutela nei confronti dei sottoscrittori di questi fondi. Peraltro ce ne sono anche altri che scadranno più avanti e vedremo se verranno prese le stesse iniziative. Allora, cosa è successo ieri a Roma? Ce lo racconta l'avvocato Maria Stella Anastasi, Lega Consumatori. Buongiorno, benvenuta, ben ritrovata anzi. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno. Tra le artefici di questa trattativa che sta andando avanti da settimane, peraltro ha lottato soprattutto per portare a casa dei risultati su un allargamento dei parametri per appunto le persone che saranno risarcite. Allora, intanto ricordiamo, circa 25.000 clienti, titolari di circa 14.000 depositi, circa 140 milioni di euro appunto di denaro sottoscritti in questo fondo immobiliare. Queste un po' le cifre di tutta l'operazione di cui parliamo questa mattina. Allora, a chi andranno gli indennizi e soprattutto quando partirà la possibilità di fare richiesta di aderire a questa conciliazione, no, avvocato Anastasi? Perché questa è esistendo già il tavolo con le Poste Italiane. Sì, certamente. La procedura di conciliazione, diciamo, sarà riservata, come dicevamo anche altre volte, ai clienti e investitori di questo fondo IRS che hanno appunto una serie di criteri, chiamiamoli così, di disagio economico-sociale, mentre per gli altri è stata prevista la possibilità di riavere, diciamo, le quote attraverso la sottoscrizione di una polizza ad hoc creata da Poste Italiane che portata a scadenza naturale farà recuperare l'intera quota investita. Per chi, dicevamo, ha queste situazioni che sono state definite appunto di disagio, c'è la possibilità appunto da marzo a giugno di fare domanda di conciliazione. Domanda di conciliazione che sarà possibile trovare ovviamente sul sito di Poste Italiane, sui siti delle associazioni dei consumatori e diciamo, per quanto riguarda questi criteri sui quali ci si è confrontati con Poste, sostanzialmente i criteri sono, diciamo, una situazione economica cosiddetta disagiata, quindi per esempio chi possiede la cosiddetta carta acquisti o social card nella versione 2016-2017, chi nel frattempo ha perduto il posto di lavoro o per licenziamento o per cassa integrazione e abbiamo chiesto a Poste di inserire e valutare la posizione anche di chi, non lavoratore dipendente ma titolare di partita IVA, avesse chiuso la partita IVA e quindi si trovasse, benché non lavoratore dipendente, in una posizione di difficoltà con l'ISE INPS in fascia 1. Quello che ci preme far rilevare è che comunque i clienti e i sottoscrittori possessori di questi fondi, quando anche nel vedere i criteri della procedura di conciliazione dovessero pensare di non rientrare tra questi criteri, noi suggeriamo comunque di incontrare le associazioni, di venire agli sportelli delle associazioni e di verificare con i nostri operatori, i nostri consulenti, perché non è detto che di fronte a situazioni che magari non rientrano in maniera stringente nei criteri che dicevamo adesso, però si può verificare magari situazioni comunque di difficoltà, certo, perdita della casa. C'è anche il tema della condizione di salute precaria, naturalmente. Esatto, l'invalidità al 100%, le indennità di accompagnamento, quindi il fatto di essere, certo, titolari di indennità di accompagnamento o di patologie gravi che possono essere d'Alzheimer, a Parkinson, a ictus, eccetera. Quindi situazioni che coprono in questo caso tutte le fasce di età e quindi si possono valutare e le associazioni riterranno magari in ogni caso di portarle al tavolo di conciliazione e di provare a discutere con Poste queste singole, certo, posizioni. Avvocato, devo chiudere, ricordiamo che ci sono anche i residenti nei comuni colpiti dal sisma, bravissima, certo, pienamente tutelati, quindi quelli che lei ci ha detto verranno risarciti integralmente, teoricamente in contanti, mentre per, sì, tutti gli anni ci sarà la contestuale possibilità di sottoscrivere una polizza, quindi rientreranno gradualmente nel capitale, sì, inizialmente investito attraverso appunto questa modalità. Avvocato, esatto, Anastasi, grazie. Adesso aspettiamo, sì, naturalmente, questi sono i criteri fissati, ormai Poste si è sbilanciata, verrà firmato probabilmente l'accordo con le associazioni dei consumatori in via formale nei prossimi giorni e quindi una volta che si partirà con la campagna di informazione agli sportelli delle Poste, per cui se siete sottoscrittori di questi fondi e andate in Poste, nessuno sa dirvi niente, è chiaro, ancora non lo sanno, ma da marzo in avanti agli sportelli qualcuno in grado di darvi informazioni su questo ci dovrà essere. Detto ciò, se non sarà così, andate presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori. Terza possibilità, scrivete a cuore denari. @radio24.it. Io giro tutto all'avvocato Anastasi, che poi si prenderà l'incarico. Avvocato, grazie. Grazie a buon voi. Lavoro. Buongiorno, alla prossima. Buon lavoro. E buon venerdì 17. Certo, avvocato Anastasi. Bene. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo. Se i tassisti hanno combinato qualcosa stamattina, sentiamo. Ci scrive già Enzo, taxi cosa da Milano. Dice? Poi ve lo intanto lo salutiamo. No. Tranquillo. Te lo dico, care amiche, i tassisti hanno le loro ragioni, che ne dicano le associazioni dei consumatori. Siamo consumatori anche noi taxisti, è vero. I primi, prosegue Enzo, ad interrompere il servizio pubblico sono i politici con il loro dolce far niente, pure molto ben remunerato. Anzi, loro questo servizio pubblico non l'hanno neanche mai cominciato. Grazie. Bene. Enzo, taxi da Milano. Un po' di polemica, andiamo subito a sentire le informazioni sul traffico. Cuore e denari. E partiamo con una bella notizia: anche quest'anno torna a Cuore Denari Più Unici Che Rari, l'iniziativa che ci vede a fianco di Fondazione Telethon per parlare di malattie genetiche rare, partendo proprio dalla diretta testimonianza di pazienti, di familiari, di medici e di ricercatori. Mancano 9 giorni, Deborah, al 28 febbraio, che bene, è la giornata delle malattie rare. E oggi iniziamo una sorta di conto alla rovescia, o se preferisci una marcia di avvicinamento. Allora, ogni giorno che cosa capiterà? Sulle nostre pagine racconteremo storie di vita e storie di ricerca. Anche voi naturalmente siete invitati caldamente a fare la vostra parte, seguiteci, potete postare i vostri commenti, lasciare un pensiero, mandarci una foto, un'immagine e soprattutto mi raccomando, se fate parte o volete segnalarci un'associazione che si occupa di malattie rare, siete naturalmente i benvenuti. Noi vi ringraziamo in anticipo del vostro contributo perché il nostro intento naturalmente è quello di fare squadra per creare ma anche alimentare la consapevolezza sulle malattie rare e soprattutto porre l'accento sull'importanza, e questo lo sottolineiamo sempre, di promuovere più ricerca su queste malattie, sul coinvolgimento dei pazienti, proprio per orientare la ricerca ai loro bisogni reali. In linea con noi apriamo questo nostro appuntamento con la dottoressa Lucia Monaco, che è direttore scientifico della Fondazione Telethon. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Anche fa quest'anno, molto piacere, ecco, di essere di nuovo con voi. Anche grazie per noi. Allora, racconteremo le storie di chi ha visto cambiare il corso del il suo destino da una patologia, magari da un nome così difficile da sembrare impronunciabile, oppure da una malattia ancora senza nome. Ma racconteremo anche l'impegno, il lavoro, la dedizione di chi crede che ogni vita è importante, per questo ha scelto proprio di dedicare la sua vita alla ricerca, per trovare delle soluzioni, per trovare delle cure. E poi naturalmente parleremo di bambini, di quelli che oggi stanno aspettando una terapia, ma anche dei bambini che proprio grazie ad una terapia sono tornati a giocare, a sorridere, come i bambini affetti da una rarissima malattia, si chiama ADASKID. Sono bambini che hanno un sistema immunitario compromesso al punto da non essere in grado proprio di combattere le infezioni più comuni e che oggi hanno una cura. Ne avevamo parlato nel giugno scorso, infatti la Commissione Europea ha autorizzato la commercializzazione della prima terapia genica ex vivo con cellule staminali e proprio grazie a questa approvazione ottenuta tutti i malati, per i quali naturalmente è indicato il trattamento, potranno ricevere questa terapia. Questa è una storia di successo che non è data dal caso, ma è proprio frutto di un metodo molto rigoroso e direi, dottoressa Monaca, assolutamente unico. Un metodo che ha reso possibile passare dagli obiettivi ai fatti. Sì, è vero, è un metodo che si basa su principi per noi molto chiari. Innanzitutto il principio che se parliamo di ricerca, eccellente. Sì. Quindi tutta la ricerca che la Fondazione Telethon sostiene passa da una valutazione estremamente rigorosa che viene affidata a esperti internazionali privi di conflitti di interesse nel valutare questa ricerca. E questo è importantissimo. Il primo punto. È il primo punto. Il secondo punto, il secondo principio per noi altrettanto fondamentale è che la ricerca è uno strumento, non è il nostro obiettivo. L'obiettivo è portare ai pazienti, alle famiglie, delle soluzioni concrete al loro problema, che possono essere una terapia, a volte, come lei ha detto, possono essere semplicemente la diagnosi, dare un nome a una malattia. E quindi, oppure un trattamento che possa migliorare la qualità della vita. Tutto questo parte da una ricerca eccellente che permetta di conoscere la malattia e permetta di affrontarla con gli strumenti che la scienza ci mette a disposizione via via. Il terzo punto, altrettanto fondamentale, è riconoscere che la ricerca accademica, i ricercatori e anche i clinici non possono condurre questo percorso da soli. Ci sono altri attori fondamentali che devono collaborare per arrivare proprio al risultato concreto per il paziente. E mi riferisco in particolare alle aziende farmaceutiche o alle aziende biotecnologiche che hanno la competenza e le risorse anche per sviluppare quei risultati che nascono nei laboratori e nella clinica, ma che devono poi arrivare ai pazienti. Un altro attore importante è l'ente regolatorio, cioè sono quelle autorità che presidiano la conduzione degli studi clinici con delle regole molto severe. Molto severe proprio per tutelare la sicurezza dei pazienti. Non da ultimo l'interlocutore e l'attore importantissimo è il paziente stesso. E certo, perché dottoressa Monaco, il titolo della nostra iniziativa, Più Unici che Rari, come appunto è ben espresso nel titolo, vuole mettere proprio al centro il paziente, raccontare la storia dei pazienti e la loro unicità. È vero, ciascuno di noi è unico, però ci sono indubbiamente delle persone che la vita mette in condizione di esserlo in modo ancora più speciale. E dottoressa Monaco, i pazienti per Fondazione Telethon sono straordinariamente unici, hanno un ruolo determinante, tanto che voi agite su loro mandato, in fondo è così, no? La ricerca è sostenuta, guidata, attesa, seguita, anche vigilata dalla comunità dei pazienti e questo li rende ancora più unici, ma mi permetto di rende anche ancora più unico il modello Telethon, della Fondazione Telethon. Certamente. Perché i pazienti sono la nostra guida, sono coloro che hanno voluto che la Fondazione Telethon esistesse. Per loro lavoriamo ogni giorno per restituire la fiducia e il sostegno che ci danno in questi risultati concreti. Vorrei aggiungere che oltre a questo ruolo fondamentale, i pazienti sono degli attori importantissimi anche nel percorso della ricerca, perché sono loro che mettono a disposizione innanzitutto la loro storia clinica, quindi i loro dati clinici, informazioni anche molto private per le quali è importantissimo agire secondo dei codici etici molto attenti, molto rispettosi, ma che permettano per contro ai ricercatori di lavorare. In secondo luogo, i pazienti di malattie rare mettono a disposizione nelle biobanche il loro materiale biologico, campioni di sangue, di DNA, di tessuti organici, che sono preziosissimi proprio perché le malattie sono molto rare, ma senza i quali la ricerca non potrebbe svolgersi. Da questa ricerca nascono poi ulteriori informazioni, informazioni che direi sono privatissime, no? sul DNA, sul genoma dei pazienti, e che sono fondamentali proprio per capire i meccanismi delle malattie, eccetera. Tutto questo richiede un coinvolgimento attivo del paziente che si sente veramente un protagonista, non solo per questi aspetti che ho detto, ma anche perché nel momento in cui venga disegnata, impostata una sperimentazione clinica, è importantissimo che siano i pazienti a indicare quali sono quelle misure quantitative che ogni studio clinico deve avere per essere dimostrato efficace, che sono significative per il paziente stesso. Certo. Quindi non solo quelle misure che il clinico, il ricercatore vedono magari sulla singola cellula, sul meccanismo biochimico e quant'altro, ma anche misure che migliorino oggettivamente la qualità della vita. Ecco quindi che hanno un ruolo veramente importante, ed è importantissimo che in ogni fase della ricerca questo ruolo venga riconosciuto e i pazienti vengano coinvolti attivamente. Allora, dottoressa Monaco, appuntamento ogni giorno qua nel nostro spazio, soprattutto sulle pagine che abbiamo dedicato a questa iniziativa. Segnalateci anche altri gruppi come le associazioni di cui fate parte. Andate sulla nostra pagina, dove troverete anche il link al sito della Fondazione Telethon. È tutto, GR, torniamo subito dopo insieme. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Cuore e denari. Il mio mentore mi ha insegnato tutto sulla forza, anche la natura del lato oscuro. Solo tramite me puoi acquistare un potere più grande di qualunque Jedi. Impara a conoscere il lato oscuro della forza. No, mai. Sì, siete sulla radio giusta, sempre Radio 24, non preoccupatevi, non stiamo andando in onda con uno speciale dedicato a Guerre Stellari. Però insomma, parlavamo del lato oscuro dei mutui, ci è sembrato carino partire anche con questa scena, insomma, che sicuramente i più appassionati ricordano. Io non sono proprio la strappassionata di Star Wars e di Guerre Stellari, non conosco tutti gli episodi, però qua sicuramente qualcuno avremmo fatto piacere stamattina. Allora, oggi ritocca ai mutui, a quei finanziamenti a lungo, lunghissimo termine che sottoscriviamo per comprare la casa dei nostri sogni. Quando ci prendiamo questo impegno con la banca, tendiamo giustamente a considerare alcuni aspetti. Qualche volta però, come dire, ci limitiamo a considerarne solo alcuni: durata, peso e sostenibilità della rata, tasso di interesse. Sono certamente aspetti importanti, però bisogna considerarne tanti altri, perché il mutuo è un mondo molto complesso e che presenta a volte, appunto, dei lati oscuri, come richiama l'inchiesta di copertina di domani di Plus 24 del Sole 24 Ore. Nel senso che prima di erogare il mutuo, la banca fa tante operazioni di verifica, non solo controlla quelle che sono le nostre capacità reddituali, quelle che sono i nostri impegni finanziari, e quindi non controlla solamente noi in quanto sottoscrittori del mutuo che andremo a pagare, ma naturalmente va a fare anche delle verifiche relativamente all'abitazione sulla quale il mutuo verrà aperto. In particolar modo la banca, prima di erogare il mutuo, fa eseguire una perizia per capire se vale il denaro chiesto. C'è il mondo poi delle garanzie accessorie, delle assicurazioni necessarie a proteggersi dal rischio di non riuscire a ripagare il mutuo, e ultimissima novità, c'è anche la recente introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto patto marciano, una questione abbastanza complicata dal punto di vista giuridico, che entra in campo quando naturalmente il mutuo non riusciamo a ripagarlo. Ma su questo tema ci arriveremo in un'altra puntata. Noi oggi appunto ci soffermiamo sui principali aspetti del lato oscuro dei mutui. Ringrazio e saluto Marcello Frisone, Plus 24, Il Sole 24 Ore, in collegamento telefonico stamattina. Marcello, ciao, buongiorno. Buongiorno. Che ci racconterà appunto che cosa contiene l'inchiesta di domani di Plus 24. E poi ringrazio anche per essere con noi per la prima volta a Cuore e Denari Angela Giannicola, amministratore unico di 24 Nexus, che è una società di mediazione creditizia. Questo mondo lo conosce molto molto bene. Giannicola, buongiorno e benvenuta, grazie. Buongiorno. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per gli interventi degli ascoltatori. Se volete raccontarci, nel caso in cui siate proprio in procinto di stipulare il mutuo appunto con la vostra banca, e se magari proprio l'istruttoria si è arenata nel momento della perizia, perché voi siete andati in banca, avete chiesto un certo importo ritenendo di dover pagare quel valore per la casa, giustamente quella che vi è chiesta, il valore che vi è stato chiesto dal venditore, dopodiché avevate immaginato che la banca vi erogasse una determinata cifra, la banca dice però secondo me la casa non vale quello che tu stai pagando, vale meno, per cui io ti erogo meno. E lì è un po' che entra in gioco tutto questo meccanismo sul quale vogliamo fare un po' di chiarezza stamattina. Allora Marcello, intanto comincio con te. Il biglietto da visita della storia di copertina di domani di Plus 24, quali sono, oltre a quello che io ho citato, gli altri lati oscuri del mutuo sul quale noi stamattina cercheremo invece di accendere un po' di luce? Sì, Deborah, hai detto bene. Diciamo che più del lato scuro del mutuo cerchiamo nelle nostre inchieste di domani, in edicolo domani, di vedere quali sono le nuove clausole che, seppur è entrato, diciamo, nelle nuove regolamentazioni che è entrato in vigore già un anno fa, in realtà comincia a dispiegare i suoi effetti proprio diciamo in questo periodo. Essenzialmente noi guardiamo, analizziamo quelle che sono le tre novità principali che sono appunto quelle che sono state recepite da un decreto legislativo in attuazione di una direttiva europea, in quale e principalmente sono tre. Diciamo innanzitutto che ci sono delle regole più stringenti in merito alla valutazione degli immobili, come tu giustamente ricordavi prima con le perizie. Poi c'è anche una verifica del valore degli immobili che sono state appunto messe a garanzia dell'esposizione ogni volta che si verificano delle variazioni delle condizioni di mercato. E poi c'è anche appunto questa terza novità che è stata introdotta con provvedimento a patto a parte del patto marciano. Poi queste sono le novità che stanno appunto prendendo piede negli ultimi tempi. Poi però bisogna sempre ricordarsi che ci sono alcuni aspetti che diamo per scontati, come ad esempio il tasso, qual è la scelta del tasso di interesse tra variabile e fisso, sappiamo cos'è lo spread, ma non sempre sappiamo quando è opportuno quale tasso utilizzare appunto in particolari periodi di mercato. Ecco, in questa non facciamo altro che valutare tutti questi aspetti rendendo quanto possibile più semplice l'argomento. Certo, c'è anche poi tutto il tema delle polizze di assicurazione che forse vale la pena considerare di sottoscrivere per fronteggiare eventuali momenti di difficoltà della propria vita di appunto pagatori del mutuo, restitutori, stamattina mi sono inventata pure un termine, però insomma ci sono momenti della vita in cui ci possono intervenire delle condizioni di difficoltà, la perdita del lavoro naturalmente e non solo, per cui probabilmente anche quello è un tema importante da considerare. Ecco, ritornando Tornando per un attimo, Marcello, proprio alla questione della perizia, perché viene enucleato nelle questioni oscure del mutuo, a prescindere dalle regole più stringenti sulla questione delle valutazioni appunto degli immobili, sui quali voi domani proverete a fare un po' di chiarezza? Beh, certo, perché in passato quando i prezzi del mercato degli immobili galoppavano, diciamo che non c'era una particolare attenzione alla perizia che veniva fatta dalla banca, anzi anche le stesse banche non mettevano un particolare controllo su questo valore degli immobili, in quanto poi non facevano altro che concedere un mutuo. Adesso invece con le nuove norme, diciamo che spesso sovrastimavano anche il valore degli immobili per consentire di erogare un mutuo più alto alla persona che, ecco, quindi hanno anche un pochino in certi momenti. Sono state accusate di drogare anche il mercato in questo senso, poi sono rientrate nei ranghi. Certo, e in questo periodo invece in cui bisogna in un certo senso stringere i cordoni della borsa, tra virgolette, o meglio, ci sono nuove regole stringenti, soprattutto per esempio per quanto riguarda i non performing loans, cioè sui crediti, per evitare che ci siano crediti deteriorati anche in futuro, allora ci sono queste norme molto più stringenti, ed è per questo appunto che le perizie adesso devono essere molto più confacenti al valore del mercato immobiliare, ed è in base a quella perizia che poi la banca dà il mutuo. Spesso invece cosa succede? Che chi vuol comprare casa, pattuisce un prezzo con del venditore, però poi si rende conto che la banca, facendo la propria perizia, non riconosce quel valore di mercato, e di conseguenza si aprono degli scenari poco piacevoli, certo, per chi ha già magari sottoscritto o versato il compromesso. Esatto, se salta la trattativa poi ne devi pagare naturalmente anche in certe circostanze delle penali. Insomma, venire fuori anche da questa prima parte di firma di un contratto è naturalmente molto difficile. Peraltro, per fare chiarezza anche in tema di perizie, 2 anni fa sono state emanate le linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, quindi una questione dal titolo molto complicata, ma in realtà è stata proprio una novità introdotta dall'ABI, dall'Associazione delle Banche Italiane, una guida che è stata realizzata in collaborazione con gli specialisti del settore, proprio con l'obiettivo di rispondere alle richieste di questa sempre più stringente vigilanza europea sulle settore, e quindi anche questo appunto possiamo ricordare come documento magari da andare a consultare per avere un po' di chiarezza su questo tema che è indubbiamente complicato. Ecco perché abbiamo bisogno naturalmente di conoscere anche questo momento della sottoscrizione del mutuo, e in questa fase possono venirci sicuramente incontro i mediatori creditizi, che sono quelle figure che svolgono un ruolo da tramite tra banca o più banche, consumatore e agenti immobiliari, quando scatta l'esigenza di cercare naturalmente il finanziamento, che fa il caso nostro, per comprare case, per trovare sul mercato l'offerta migliore per le nostre esigenze. Angela Giannicola, appunto, lei è amministratore unico di questa società di mediazione creditizia, che ha una forte penetrazione appunto sul territorio nazionale, un'esperienza di 15 anni, quindi avete avuto modo di raccogliere dell'esperienza anche rispetto a quella fase che raccontavamo prima, no? Quando il mercato immobiliare viveva la sua stagione di boom, e sul tema delle perizie si è detto davvero di tutto. Intanto ci fa un po' un biglietto da visita della vostra professione per far capire perché anche in un momento delicato come questo siete un interlocutore privilegiato appunto per fornire la consulenza giusta alle persone che hanno bisogno di sottoscrivere un mutuo. Certamente, Deborah, ho ascoltato con molta attenzione, non posso che condividere quelle che sono le tematiche da voi evidenziato e l'iter appunto che mi è stato descritto. La figura della mediazione creditizia ha avuto di conseguenza in parallelo a sua volta una grande evoluzione, fino a quando è stata poi emanata una normativa specifica entrata in vigore nel 2012, che fa sì oggi che la mediazione creditizia sia una vera e propria attività professionale, abbiamo detto fondamentale e importante, che si inserisce nel momento in cui la potenziale clientela ha necessità di ottenere finanziamenti sotto qualsiasi forma, e dall'altra parte abbiamo istituti di credito che hanno sempre più necessità di incontrare clientela specifica per la distribuzione dei propri prodotti, e qui entra in gioco la figura appunto del mediatore creditizio. Questo trade union che con professionalità, puntualità e competenza deve essere il punto d'incontro di questi due mondi, in modo che l'erogazione avvenga nella migliore maniera possibile. Oggi la figura del mediatore creditizio presuppone un'iscrizione specifica, e questo è un messaggio molto forte da lanciare. Quindi diffidare da coloro che non hanno questo tipo di iscrizione, certo, perché oggi le società di mediazione creditizia sono consultabili in quanto questo elenco è tenuto ed è pubblico, tenuto dall'organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Ha fatto bene a sollevare questo aspetto, perché anche qui lei lo sa bene, sì, anche perché ha lavorato molto per combattere questo fenomeno. Molto spesso, sì, in passato anche i mediatori sono stati un po' additati come coloro che hanno agevolato queste perizie un po' drogate, non esattamente rispondenti ai valori immobiliari appunto reali, per cui è bene che si sappia che in realtà nel mondo è stata fatta una, tra virgolette, mi passi il termine, pulizia molto radicale, e oggi avete dei parametri legislativi ai quali rispondere che sono molto stringenti e che quindi chiaramente aiuta anche, esatto, voi nel fare, sì, un lavoro corretto sul mercato. Peraltro ci tengo anche a dirlo, perché ho conosciuto ad alcuni eventi Angela Giannicola, questa società ha vinto anche dei premi, ha avuto anche dei riconoscimenti proprio per il lavoro che fa, per, no, esatto, per essere assolutamente trasparente e tutelante nei confronti dei clienti, dei consumatori che si rivolgono a voi. Ci tenevo a raccontarlo, ci tenevo ovviamente anche la società, ma siccome poi si rischia come in tutti i settori di fare sempre di tutta l'erba un fascio, chi invece lavora con criteri deontologici molto rigidi, a noi piace sempre segnalarlo. Brava Nicoletta. Allora adesso ci sono anche un paio di domande di alcuni ascoltatori. L'ho lasciata concludere, Giannicola, vorrei andare subito alla perizia perché sennò qua il tempo, sì, ci sfugge di mano. Andiamo alla perizia. Andiamo subito allora alla perizia. Sì, esatto. Perché il punto è successo tutto questo, ecco, no? Qual è stata la causa? Come ho detto prima, molto importante e fondamentale è eliminare questa asimmetria informativa che esiste tra cliente, banca, e quindi la necessità che andiamo a soddisfare. Che cosa vuol dire? Noi, analizzando questo fenomeno che è stato descritto, abbiamo posto dei rimedi attraverso un'attività specifica che noi chiamiamo attività di prequalifica, che è un'attività che si posiziona invece nella fase iniziale del processo di acquisto del cliente, che va a svolgere una corretta e approfondita analisi di quelle che sono appunto le esigenze e il rating creditizio dello stesso, in modo che l'aspettativa del cliente sia puntuale rispetto alla reale capacità di acquisto dello stesso. È solo a quel punto che si va a individuare l'immobile, il corretto immobile da acquistare, non il contrario. Perché quello che ha generato un po' tutta la bolla di cui abbiamo parlato nasce proprio dal fatto che il cliente, in un momento di forte emotività, che è certo, quello dell'acquisto della casa, ha poca lucidità per capire e analizzare puntualmente, cioè, il passo importante che va a compiere. Per cui molto spesso sono stati individuati immobili di valore maggiore rispetto alle reali capacità di acquisto del cliente, e a quel punto si è andato ad inserire l'aspetto finanziario forzando notevolmente quella che era la reale capacità finanziaria, infatti, del cliente stesso. Con questa attività invece oggi, molto, ecco, per la quale noi siamo stati premiati, come lei giustamente evidenziava prima, che cosa facciamo? Noi analizziamo in una prima fase la reale capacità di acquisto, quindi del cliente, e il suo rating creditizio. Stabilito questo, si va a individuare il corretto immobile. A quel punto, esatto, la perizia sarà naturalmente coerente. Perché cosa voglio dire? Nel momento invece in cui si ribalta questo equilibrio, questa perizia deve avere un, infatti, valore gonfiato, che, esatto, è quello che è successo negli anni scorsi. Esatto, dopodiché di conseguenza valore dell'immobile gonfiato, mutuo erogato più alto per poterlo ripagare nel tempo, tasso variabile che è esploso tra il 2008, 2009 e 2010, mutui che sono saltati, famiglie insolventi, provvedimenti legislativi presi d'emergenza con le sospensioni, le moratorie e quant'altro, e molta difficoltà. Detto questo, adesso la interrompo solo per un attimo, dottoressa Giannicola, perché vorrei anche spiegare ai nostri ascoltatori, perché adesso abbiamo una domanda di Marino dalla provincia di Firenze, gliela faccio fare e poi la faccio completare il suo ragionamento appunto sulla differenza tra il valore di un immobile che viene periziato dalla banca e il valore di mercato, perché qua le persone immaginano che sia sempre esattamente rispondente. E invece Marino, dalla provincia di Firenze, purtroppo non è così. Purtroppo, per fortuna, non lo sappiamo. Ci dica, buongiorno. Buongiorno signora Nicoletta, buongiorno signora Deborah. Dunque, io ho chiesto un mutuo, avevo chiesto 60.000, mi hanno dato 75.000. La casa che io ho messo a garanzia vale sui 550.000, me l'hanno valutata la perizia sui 370, ecco, non sapete certo. Come mai questa una differenza questa perché? Così, perché grande. Magari il valore dell'immobile è quello, è certo, il valore poi di mercato è un'altra cosa, lei. C'è anche un pezzettino di valore che da lei, se lei vuole assolutamente quella casa, deve magari essere disposto a, come dire, a riconoscere al venditore qualcosa in più. Se poi è disposto a rinunciare a questo investimento, chiaramente il prezzo. Un'ultima cosa, ce la fa Marino, ma deve essere telegrafico. Sì, velocissimo. A me mi hanno chiesto un monte di garanzie, di documenti, eccetera, eccetera, per 65.000 euro. A chi chiede milioni al Monte dei Paschi. Vabbè, Marino, guardi, non è la puntata, non è la trasmissione in cui parlare e portare queste polemiche, perché a noi non interessano. Ci sono mille altre trasmissioni a Radio 24 dove poterlo fare. Noi andiamo a dare informazioni di servizio agli ascoltatori. Dottoressa Giannicola, allora, partendo dal caso di Marino, ovviamente, senza andare a rispondere a lui direttamente, perché poi bisognerebbe vedere la casa, che tipo di mutuo ha chiesto, tutte le sue caratteristiche, eccetera. Però possiamo proprio fare quello che è necessario fare adesso, la differenza fra il valore periziato e il valore di mercato. Sono due aspetti diversi, che spesso diversi. Sono non coincidenti. Sì. Innanzitutto dobbiamo, ecco, non possiamo sottovalutare il fatto che in questi anni necessariamente, insomma, questi prezzi sono in qualche modo scesi. Non sempre questo viene recepito da chi vende ovviamente l'immobile, che purtroppo a volte si è visto anche depauperare il valore del proprio cespite e quindi spinge per tenere questo prezzo comunque più certo. alto. Dall'altra la volontà dell'acquirente, che come ci siamo appena detti a volte vuole esattamente quell'immobile, lo vuole esattamente in quella zona, lo vuole esattamente in quel contesto, e quindi è anche disposto a pagare qualcosa in più rispetto al reale valore dell'immobile. Questo non sempre si coniuga invece con quella che è un'analisi oggettiva e puntuale che oggi fa l'istituto di credito nel momento che concede appunto il mutuo. Bisogna capire che quando la banca rileva delle, a volte anche difformità, a volte delle mancanze documentali all'interno di quello che è stato l'iter di costruzione o l'iter di trasmissione di questo immobile, bisogna saper accogliere invece questa analisi nell'interesse dell'acquirente. Mentre ecco, spesso l'acquirente legge il problema evidenziato dalla banca come qualcosa che va contro i propri interessi, esatto. mentre invece in quel momento la perizia svolta in maniera puntuale ed oggettiva dall'istituto di credito è una forma di tutela per l'acquirente. Non è, ecco, il voler andare, non è un dispetto, esatto, non è un dispetto, esatto. Io mi rendo conto che siccome dovendo sempre raccontare delle banche brutte e cattive, paradossalmente ci sono dei momenti in cui invece fanno i nostri interessi e quindi lo dobbiamo riconoscere. No, sì. Poi peraltro anche una perizia corretta consente anche in un momento successivo in cui abbiamo bisogno noi di diventare venditori di quegli immobili, magari di trasformarlo in un investimento liquido che possiamo rivendere anche rapidamente, proprio perché non ha alla base una richiesta di prezzo appunto esagerata. Ma non solo, perché queste perizie poi fatte, ecco, per valori che sono stati decisamente pompati, usando una parola nel gergo quotidiano, ha posto poi molti limiti anche nei momenti in cui consumatori si sono trovati in difficoltà e quindi nella necessità di surrogare o rinegoziare il mutuo acceso qualche anno fa. Nel momento in cui si va a svolgere la perizia si va a vedere che questo immobile non ha certo. il valore che all'epoca era stato periziato, e quindi a quel punto il cliente si trova in ulteriore difficoltà perché non può andare neanche a rinegoziare quelle che sono le proprie liberamente, no? Come prevede invece oggi la normativa. Dottoressa Giannicola, è difficile far comprendere questi aspetti ai vostri clienti quando vengono da voi con l'obiettivo, come dicevamo prima, di comprare la casa dei propri sogni? Hanno magari un po' un'idea anche distorta del vostro lavoro, immaginano che venendo da voi possiate un po' facilitare le pratiche con la banca e invece poi dovete trovarvi a spiegare anche tutti questi aspetti, magari dire proprio fai attenzione perché stai magari così sognando di fare un investimento che non è la tua portata, anche perché in realtà il prezzo che ti viene chiesto è molto superiore rispetto a quello che, periziando appunto il valore dell'immobile, sarà stabilito da questa perizia. È difficile fare educazione su questi aspetti? Allora, personalmente no, nel senso che noi ci siamo sempre posizionati nel mercato e abbiamo sempre puntato la nostra proposizione sull'aspetto fiduciario che deve innegabilmente legare la nostra società al cliente. Il cliente deve comprendere che il nostro ruolo non è soltanto quello di cercare il tasso più basso o la rata più bassa, bensì è quello di condividere insieme ed analizzare puntualmente quello che è il progetto di vita di questa famiglia, che non è soltanto l'analisi del momento contestuale in cui si fa l'acquisto, bisogna saper analizzare, quindi anche nel breve e lungo periodo, quella che sarà l'evoluzione della famiglia, le esigenze che si possono quindi andare ad inserire lungo questo percorso, esigenze che cambiano con l'arrivo di figli, con la prosecuzione, potenziali imprevisti, quindi la necessità di tutelare anche queste forme di indebitamento con prodotti assicurativi connessi puntuali e con garanzie reali e consistenti verso questa forma di indebitamento. E questo legame diventa molto stretto e solido quando il cliente comprende che il nostro ruolo è fare il suo bene e non facilitare un accesso al credito dissennato o irresponsabile. La figura del mediatore creditizio non è quello che facilita ciò che la banca non può fare, ed è quello che io combatto quotidianamente. Al contrario, il ruolo del mediatore creditizio è quello di assistere, istruire, educare il cliente in una giusta e sana e consapevole scelta finanziaria. E noi naturalmente appoggiamo questo suo impegno. Grazie ad Angela Giannicola, amministratore unico di 24 Nexus, per essere stata con noi. Speriamo di aver fatto chiarezza questa mattina su un passaggio cruciale per l'erogazione appunto del mutuo, il valore della la perizia appunto dell'immobile, che molto spesso causa un po' di problemi, appunto, come dicevamo poco fa, per tutte le situazioni che abbiamo raccontato. Tant'è vero che anche su WhatsApp Maurizio proprio ci segnalava che sta provando a fare una surroga con una nuova banca, ma naturalmente sta venendo fuori proprio il valore alterato dell'immobile rispetto al primo mutuo erogato. Ci ritorneremo sicuramente su questi temi, perché qua basta pronunciare la parola mutuo è un po' come nei casi tuoi, Nicoletta, non so, diabete, che cosa, pressione, forse la pressione è pari al mutuo al come mutuo. Grado di consenso tra i nostri fedeli ascoltatori. Grazie, ci fermiamo, io vi racconto rapidamente la borsa e poi tu andiamo alla scaramanzia. A tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Cuore e Denari. Allora, è venerdì, però è anche venerdì 17. Però voilà! Sono le 11.33. Esatto. Tutto fila liscio. Sì. Come un giorno qualsiasi. Non è neanche mezzogiorno, quindi speriamo. Oppure qualcosa è già andato storto. Se il 17 si è già accanito su di voi, chiamateci subito 800 24 00 24, perché noi vi portiamo fortuna. Ma chiamateci anche per raccontarci se avete talismani, amuleti, riti scaramantici, qual è il vostro portafortuna, se ce l'avete. E soprattutto raccontateci se siete più impegnati ad allontanare la sfortuna o a procurarvi buona sorte. Essere superstiziosi ed ignoranti, Deborah? Assolutamente d'accordo. Ma non esserlo porta male. Questo scriveva ma con le dovute precauzioni Edoardo De Filippo. Allora, voi siete d'accordo? 800 24 00 24. Allora, che cosa vi porta fortuna, che cosa invece al contrario temete? E che cosa fate? Bene. Molti dei nostri ascoltatori, Deborah, cosa ci ascoltano, dicono? Mentre sono alla guida. Intanto sono già arrivate delle telefonate, adesso dalla regia richiameranno i nostri ascoltatori. Allora, chissà se qualcuno di loro ha partecipato al sondaggio, perché per venerdì 17 facile.it ha preso in esame i comportamenti di un campione di automobilisti. Vuoi sapere cosa ne è venuto fuori? Assolutamente, perché sì. Perché tu i numeri li sai leggere bene. Allora, il 44% di chi guida ammette di ricorrere ad amuleti, portafortuna o scaramanzie varie, mentre il 56%, siamo quasi abbastanza vicini, no, Deborah? Non si reputa affatto superstizioso, però le cose cambiano a seconda delle situazioni, naturalmente. Il 17% degli intervistati, e quindi uno su sei, dichiara di cambiare strada o addirittura di fermarsi e accostare, così fanno passare l'altro, se attraversa il gatto nero. L'importante è non metterlo sotto, mi raccomando, poveri amici. E quasi un automobilista su 10 ricorre alla scaramanzia, però proprio solo se è tirato per i capelli, solo in caso di necessità, e quindi pensa di trovarsi in una situazione di grande pericolo, una situazione sfortunata, e allora che fa? le corna, perché sono comode e le abbiamo esatto, tutte a portata di mano. Esatto, è l'amuleto ambulante con noi praticamente. Tu lo sai perché si fanno le corna? No. Neanch'io. E sai perché, neanche Carmelo, e sai perché si incrociano le dita oppure il quadrifoglio porta buono? Hai studiato tu tutte le origini dei riti? Io ho studiato un po', perché ce ne sono tanti e poi sono riti che si tramandano di generazione in generazione. Facevano, incrociavano le dita le nostre nonne e probabilmente anche i nostri pronipoti continueranno magari a fare le corna, a tenersi l'amuleto in tasca. L'app sullo smartphone. 800 24 00 24, abbiamo Anna da Genova. Buongiorno Anna. Buongiorno ragazze. Com'è? Buongiorno, non lo so se è proprio tanto un buongiorno, mi viene da ridere, ma brava, io non sono superstiziosa, ma il mio venerdì 17 è iniziato così, perdita in bagno, con corrispondente danno nel muro della scala condominiale. Quindi doppio danno dentro e fuori. Ma è il suo bagno che perde, Anna? Il mio. Allora, erano le 7 del mattino, vabbè, appena sveglia. Quindi, e se il buongiorno si vede dal mattino, Anna, però sa che noi a Cuore Denari portiamo buono, ce lo sta scrivendo anche Ulisse, ascolta Cuore Denari perché gli portiamo buono, siamo il suo amuleto. Ma tu che le sai tutte queste Anna, intanto cosa deve fare? L'amministratore di condominio l'ha chiamato oppure ha chiamato solamente certo, il suo idraulico di fiducia? No, bisogna chiamare l'amministratore perché faccia venire muratori che lavorano per il condominio. Siamo già nella fase del muratore, per cui non basta l'idraulico e chi tinteggia. Bisogna spaccare il muro della scala. Magari arriverà un muratore bellissimo, esatto, Anna, guardi, giovane. Io dico che finché si tratta di un problema che si risolve come questo, pazienza, un po' di disagio per qualche giorno, un po' di rabbia stamattina, ma poi magari arriva un bel tipo. Esatto, questi ragazzi belli, un po' come quello della gastronomia che abbiamo visto ieri pomeriggio con Nicoletta. Siamo andate qua, quasi chiudiamo apposta. La parentesi, esatto. Va bene, non possiamo darvi l'indirizzo. No. Allora, intanto salutiamo Tatiana Torti, psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, che è in linea con noi. Buongiorno dottoressa e bentornata. Buongiorno a tutti voi. Allora, un venerdì iniziato male. Anna poteva fare le corna, gli scongiuri, andare a prendersi il cornetto, tant'è che la giornata non è iniziata sotto una buona stella. Dottoressa, funziona così. Ma volevamo, ecco, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di raccontarci, se ce l'hanno, il loro portafortuna. E nel caso di raccontarci anche che cosa per loro, che cosa temono: il sale rovesciato, l'olio, il gatto nero. Sul gatto nero lo stiamo sdoganando perché molti ascoltatori ci scrivono dei loro incontri col gatto nero. Nicola dalla provincia di Vicenza dice che gli manda un bacio. Un altro ascoltatore ci scrive che gli attraversa la strada un gatto nero e molto felice perché non l'ha messo sotto. Per il resto nessun problema. Dottoressa Torti, corna, cornetti, gobbetti, quadrifogli, le dita incrociate, che origine hanno tutti questi gesti scaramantici che ci tramandiamo da generazione in generazione? Eh sì, sono proprio dei gesti scaramantici che si tramandano da una generazione all'altra, quindi sono molto automatici, ma in realtà sono appresi, Nicoletta, quindi se noi ci facciamo caso, appunto, il gatto nero, meno male che viene sdoganato ultimamente, perché di per sé è un gatto nero, oppure no, passare sotto una scala non hanno un valore negativo assolutamente, ma sono condizionati perché apprendiamo nel corso del tempo, ci raccontano che possono avere un valore negativo. Allora, il discorso dei gesti scaramantici è un po' particolare perché farli non danneggia nessuno, in più non costano nulla, quindi alla fine perché non farli? Ma perché si fanno? Cerchiamo di capire insieme. Allora, da un punto di vista psicologico rappresentano un bisogno di rassicurazione, che è lì a portata di mano, lo facciamo subito, velocemente, e che tutti abbiamo dentro questo bisogno di rassicurazione, quindi ecco perché fanno un po' presa alla fine su tutti. Allora cosa succede? Questi comportamenti concretizzano quella convinzione che gli eventi futuri possano essere da noi influenzati. Malgrado in realtà non esista nessuna relazione tra il gesto e l'effetto che il gesto dovrebbe avere, e quindi non c'è un ragionamento razionale alla base, neanche di tipo probabilistico, anzi, quello dovrebbe guidare i nostri comportamenti, ma in questo caso è assente completamente. Si parla appunto di superstizione, e che cos'è la superstizione? È una credenza irrazionale vera e propria. In fondo ci fa sperare che noi abbiamo qualche potere soprannaturale, il termine stesso lo sottolinea. Che siamo anche noi un po' magiche. Sì, esattamente, che possiamo avere a che fare con tutto quell'aspetto dell'incertezza, del futuro e della realtà che non possiamo controllare, ma noi abbiamo comunque la speranza di controllarlo. Un po' un potere razionale soprannaturale. Allora, 800 24 00 24 ci scrive a Serena, adoro i numeri dispari, quindi il 17 non porta affatto male, inoltre oggi è la giornata mondiale dei gatti, animali che adoro. Ma dai! Diego, buongiorno da Milano. Buongiorno. Buongiorno, volevo solo dire che il mio numero fortunato è il 17, perché nel 2000 ho conosciuto mia moglie, un 17 che era marzo, venerdì, si ripresenta nel 2017, il 17 marzo che è un venerdì, ho una figlia che è nata il 1 luglio che è 1-7, però il 17 mi porta bene. È il suo numero fortunato. E non ci penso, quando arriva il 17 di ogni mese, non penso al numero, non penso, anzi, penso che sia una giornata fortunata. Anzi, è il suo numero fortunato. Grazie. Io sono che romantico sì. È questo uomo qua. E anche per te il tuo numero fortunato. Sono nata io di esatto, venerdì 17. Ma il mio portafortuna ce l'ho seduto tutti i giorni davanti. Vedi, vedila qua. Allora, dottoressa Torti, allora, siamo circondati. Beh, intanto sì. Io mi unisco a voi perché anche per me il 17 è il numero mio fortunato, quindi vediamo che no, è molto soggettivo il discorso delle scaramanzie. Allora, perché il venerdì 17 vi porta buono? Chiamateci, scriveteci, cambiamo taglio della puntata, dottoressa Torti. Comunque, che noi ne diciamo, basta guardarci intorno e vediamo che bancarelle, negozi di souvenir sono pieni di cornetti, gobbetti, quadrifogli, mani cornute, quindi da qualcuno li comprerà. A volte li vediamo proprio ciondolare, pendere dallo specchietto retrovisore delle macchine, e quindi poi uno dice non ci credo, ma tant'è, male non fa. Ecco, dottoressa Torti, tante volte ci così difendiamo dietro questo atteggiamento, la buttiamo un po' sul ridere, ma poi alla fine non possiamo evitare di fare le corna, toccare ferro, un po' Eh sì, alla fine è proprio così. Noi abbiamo tutti un senso di incertezza, abbiamo la paura dell'imprevisto e abbiamo un senso di sicurezza che è un bisogno, che si deve poi concretizzare in qualcosa, è una caratteristica dell'essere umano. E allora già questo si faceva nelle antichità, gesti propiziatori per avere la protezione degli dèi, ma ancora oggi cerchiamo la protezione di Dio o chi peraltro, accendendo candele, chiedendo l'intercessione dei santi. Allora sono gesti ripetuti, semplici, per ottenere il favore di qualcosa che è più grande di noi, non conosciamo. Allora l'irrazionalità va a toccare la paura più profonda dell'essere umano, in realtà è bisogno di controllare quello che accade, per cui siamo sempre lì, è un bisogno molto remoto che però tutti abbiamo. Allora, dottoressa Torti, però tra i pochi che ci credono, facciamo finta di crederci anche noi, c'è chi è più impegnato ad allontanare la sfortuna e chi invece cerca di farsi amica la fortuna, insomma di portarsi buono. Sono due facce diverse della superstizione o che altro? Ma possiamo dire così, che in linea di massima i gesti per allontanare la sfortuna fanno riferimento alle nostre paure, quindi più l'aspetto della paura, un'emozione che categorizziamo come negativa, in realtà non lo è, ma noi la percepiamo come tale. Mentre i gesti porta fortuna sono più relativi alla speranza, quindi mi fanno pensare, no? A cosa desidero, all'obiettivo da raggiungere. In ogni caso, entrambe le tipologie di gesti potrebbero rientrare in quello che noi chiamiamo in psicologia il processo di condizionamento operante, che rimane poi nel campo ideale, cioè del mondo fantastico, fantasioso. Mi spiego meglio. Sì. Io imparo a fare un gesto in prossimità di uno stimolo e lo faccio perché sono convinta che possa ricevere un rinforzo positivo, il benessere, la protezione, oppure di sfuggire a uno stimolo avversivo, cioè quello negativo. Facciamo un esempio. Un gatto nero mi attraversa la strada il venerdì 17. Sono due stimoli condizionati. Perché condizionati? Perché io ho imparato che il venerdì 17 e il gatto nero sono associati a un valore negativo. Ripeto, di per sé loro non hanno niente di negativo, ma lontaniamo col tempo. Allora il comportamento condizionato è cambio strada. Certo. Con la peculiarità che non potremo mai verificare l'efficacia del nostro comportamento perché è un procedimento casuale. Quindi io non so se le cose mi andranno bene perché ho effettivamente cambiato strada o per altri mille motivi. Ecco, questo si chiama condizionamento operante. Quindi sia nel caso che voglio allontanare la sfortuna che voglio favorirmi la fortuna. Voilà, noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. No, allora sì, c'era un'ascoltatrice che corre in aiuto di Anna, che stamattina si è svegliata con la perdita in bagno e suggerisce appunto che se la perdita è causata da un tubo interno, il lavoro potrebbe essere, il danno potrebbe essere ripagato dalla assicurazione condominiale, però appunto in realtà la nostra ascoltatrice ci ha prima evidenziato che il danno arriva dal suo bagno, quindi temo che qua l'assicurazione condominiale non potrà intervenire, ed era questo il motivo per cui era particolarmente preoccupata. Il danno l'ha fatto a livello condominiale, ma il tubo è il suo. Il danno è la beffa. Il tubo è suo e i danni sono suoi. No, vabbè, facciamo un altro proverbio. Allora, intanto, siete nati oggi, siete nati come me di venerdì 17, teniamoci su. Intanto andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Cuore e denari. Io non sono superstizioso, ma leggo sempre l'oroscopo sul giornale. Appendo un portafortuna o un cornetto alle chiavi. Vado in crisi se rompo uno specchio o verso il sale di venerdì. Mi blocco se, mentre sto per dare una stretta di mano, inavvertitamente la incrocio con quella di un'altra persona. Rifiuto la stanza numero 13 o 17 negli alberghi. Credo che il venerdì 17 porti sfortuna. A casa appendo il ferro di cavallo e le zampe di coniglio perché portano bene. Se incontro un gatto nero per la strada, cambio marciapiede. Mi preoccupo se ho appoggiato il cappello sul letto, perché porta male. E noi riprendiamo il passo con un estratto da Non è vero, ma ci credo, di Gilles Jean Genin. Ti piace questa pronuncia? Ah, io non ho competenze per giudicare, ma sei bravissima. Comunque, gatto nero e poi scale, cappelli lasciati sul letto, il sale che viene versato inavvertitamente a tavola, insomma, ognuno ha i suoi riti, le sue manie, di questo parliamo oggi. D'altronde non potevamo non farlo, non raccogliere questa occasione. Venerdì 17, parliamone insieme, e in linea con noi c'è la dottoressa Torti, che ci racconta qualcosa di noi, anche proprio attraverso il modo con cui noi cerchiamo di procurarci fortuna o allontanare la sfortuna. Dottoressa Torti, oltre alle superstizioni classiche, ciascuno di noi ha le sue piccole personali superstizioni: l'amuleto che stringiamo prima di fare un colloquio, il vestito che sappiamo ci porta buono, la canzone propiziatrice, insomma, lo sappiamo bene, no? Nel momento in cui ci affidiamo a queste cose, che stiamo facendo qualcosa di irrazionale. Ma tant'è, dottoressa, che quasi non ne possiamo fare a meno. In realtà, ecco, ognuno di noi ha delle superstizioni molto soggettive. Non si conoscono poi ad oggi delle chiare associazioni tra il tipo di superstizione e il tipo di personalità. È vero che possiamo però sottolineare due aspetti che per me sono importanti. Da un punto di vista più generale, possiamo immaginare molto logicamente che riti e superstizioni risentano della cultura di riferimento. Pensiamo alle proprie origini, agli apprendimenti familiari. Se vogliamo fare un esempio molto banale, allora pensiamo all'ambito della musica o del teatro, che costituiscono delle culture, no, di riferimento. Allora, queste culture possono sviluppare gesti scaramantici peculiari, precisi. Ancora una cultura rurale ne può sviluppare altri. Allora, possiamo pensare anche in questo caso, per esempio, come gesti scaramantici possano unire gruppi, e quindi qui si apre ad un altro capitolo. Mentre dal punto di vista più soggettivo è vero che gesti scaramantici possono derivare o avere delle assonanze con quello che facciamo nella vita. Facciamo l'esempio: se io sono uno scrittore, posso avere come portafortuna una penna, ma non è detto che sia così per forza, quindi non c'è una regola fissa e certa. È molto soggettivo, andrebbero un po' capite le storie legate ai gesti scaramantici e portafortuna vari. Carmelo, buongiorno, ci chiama da Catania. Buongiorno, scusate se si chiude perché sto viaggiando. Comunque, io in merito a D17 devo dire grazie a mia mamma, perché sono nato di cassette di venerdì. E sarà una persona speciale, perché chi nasce di venerdì 17... 50 anni fa, oggi. Sì. Ah, è compleannato oggi? Aspetta, questo mi era sfuggito. Oggi ha detto, devo ringraziare sua mamma. Sì. Ecco. Grazie. Come ora avevo 52 minuti che ero. Quindi... niente, io non posso dire nulla di malefico in merito al numero di cassette, solo che devo fare un'osservazione alle compagnie aeree e all'ANAS Autostrade. Se fate caso, sulle compagnie e sui posti a sedere manca il numero di cassette. Sì. Su Casello di Melegnano, Milano, manca il casello numero di cassette. Che comunque, il 17 lo cancellano, che peraltro anche lo, io comunque il 18, sia posto a sedere che posto a casello, è sempre il numero di cassette. Eh già, perché se non c'è il 17 c'è il 18, prende il posto del 17. Ma quante ne sa il nostro amico? Allora, ci scrive anche Roberto, dice che è a Malpensa in attesa di volare per San Pietroburgo, la fila 13 tutta per me. così sarò comodo mentre guardo la prima serie della puntata di Lost. È finito allora, crea dipendenza. No, ma tra l'altro lui aspetta Malpensa di prendere l'aereo ascoltando Cuore e Denari, ma questo è il numero uno, è un idolo. Allora, grazie Carmelo, tanti auguri, quindi abbiamo mandato anche il messaggio. Fate il posto 17, c'è questo... Io e Nicoletta ci sediamo senza alcun tipo di cornetto dietro. Perché ci sono io, te lo dico. Ma allora, il problema, adesso che abbiamo capito un pochino di più di questi gesti, riti scaramantici, li facciamo... se confessiamo di farlo anche un pochino per allontanare l'ansia o per avere un po' l'impressione, dottoressa Torti, di poter governare un po' la situazione, la cosa curiosa è capire come mai si tramandano negli anni, da generazione in generazione. Lo chiediamo al prossimo ospite, il professor Silvano Petrosino, filosofo e docente di antropologia filosofica all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a voi e a tutti intanto, gli ascoltatori. Intanto buongiorno. Per lei è un giorno fortunato perché arriva in questo gineceo di venerdì 17. Non le capiterà è questo, mai più. È questo. Non sappiamo, possiamo invitarla anche la prossima settimana, però intanto lei inizia bene. Ma ci spieghi come mai il cornetto è un sempreverde con il cornetto quadrifoglio e chi più ne ha più ne metta? No, adesso non so precisamente perché il cornetto, ma la questione a me sembra questa. Cioè, noi abbiamo una visione veramente astratta dell'uomo, cioè noi concepiamo l'uomo come un essere ben formato, che sa sempre chi è, che sa sempre che cosa vuole e che gli unici ostacoli che incontra vengono dal mondo esterno. Quindi un uomo, abbiamo un'idea spesso di un uomo senza limiti, senza debolezze, senza peccati, senza vizi. Questo uomo non è mai esistito. Cioè non è che non ci piacerebbe neanche poi tanto. Esattamente. Tutto con questi senza. Ecco. Questo uomo non è mai esistito. Quindi da questo punto di vista, cioè, l'inquietudine, diciamo, umana non è qualcosa che riguarda certi periodi della vita, che riguarda certe società, che riguarda certe epoche. L'inquietudine strutturale dell'uomo. Allora, questo è un po' il motore che fa sì che, per me poi questo è l'elemento, diciamo, se vuole, positivo di tutta questa storia, che fa sì che l'uomo cerchi dei legami, cioè continuamente dei legami fra quello che fa, con l'ambiente che c'è intorno, con le persone che ha intorno, giustamente è stato detto, rispetto alla cultura. Certo. Il grande tema è questo qui del legame. Ora è interessante che questo tema del legame lo si ritrovi poi nella radice stessa della parola religione, che è soltanto, come dire, una visione veramente superficialissima, può interpretarla come una questione che riguarda il passato. Perché il religio è il tentativo appunto di collegare, di stabilire dei legami. Sì, certo. Ecco, questo un po'. Poi è chiaro che uno stabilisce i legami. In base? Sì, no, poi certo. Con ciò che è intorno. Certo. Siamo punto. Condizionati e ci relazioniamo con l'ambiente che naturalmente ci circonda. Ma professore, lei ha un portafortuna? No, portafortuna, è vero che ho quelli che io chiamo dei moti, cioè dei piccoli riti personali. Ecco, che sono una sorta di allenamento. Il rito personale va bene, dottoressa Torti? Assolutamente sì. Anzi, lo fanno anche gli sportivi, è una sorta di... Perché è rassicurante e ci dà anche l'idea di avere la situazione un po' sotto controllo. Esatto. Come dire, anche aumentare in qualche modo la fiducia in se stessi nel momento del bisogno, quindi è importante avere alcuni piccoli riti. Allora, andiamo a Vito che ci chiama da Bari perché stiamo chiudendo e chiudiamo in bellezza. Vito, buongiorno. Buongiorno a lei, signora. Buongiorno e auguri. Auguri, grazie. Gli auguri fanno sempre bene. Vero, e poi soprattutto di venerdì 17 portano bene due volte, per non essere scaramantica. Appunto, sì. Allora, Vito. Sì. Ci dica. Mi dica. No, ci dica niente, lei. Volevo segnalarvi che oggi, venerdì 17, quindi come dicevano gli antichi romani, dies non comperendinum, mia moglie con due sue amiche partono alle ore 17 e vanno da Bari per Milano per raggiungere un dei parenti. Mi auguro che almeno il volo non alle ore 17, come dice. Mi auguro che il volo non sia almeno un AZ 17:17. Beh, completerebbe tutto il quadro. Poi se li gioca all'otto e magari una grande fortuna. E porta a cena a noi con la vincita, ecco. Vito, allora, intanto auguri per lei, buon viaggio alla moglie. Ho sentito che però, vedi, lui è stato è rimasto lì mentre la moglie va con le amiche. Mica male, un bel weekendino con le amiche, magari di venerdì 17. Allora, dottoressa Torti, la ringraziamo per essere stato con noi. Ringraziamo anche il professor Silvano Petrosino. Grazie a voi. Noi ci prepariamo per questo weekendino. Ma sì, guarda, abbiamo anche il tempo una volta tanto di ringraziare tutta la squadra che anche se venerdì 17 ci assiste sempre con tutto l'affetto e il necessario conforto. Laura Vanossi, sì, Marco Lombardo, Carmelo Lauricella. Noi torniamo lunedì. Grazie, cara la mia gattona nera. Ti piace, gattona. Arrivano i messaggi, caro duo, esatto, mi piace ormai, molto. Come... Lunedì sappiamo già, io forse lunedì avremo qua con noi... Ah, il grandissimo, il numero uno, l'unico ed inimitabile, posso Franco? Dirlo? Berrino, grandissima. No, io ancora non ho in programma niente, anzi se volete segnalarci qualche argomento che vi piace per denari sono pronta ad accontentarvi. Lavoreremo su alimentazione, movimento e meditazione, Bene. Fate Ottimo. Le prove. Grazie, a lunedì, buon weekend.